Cugico Inchieste. D come discriminazione. La pandemia, le disuguaglianze, il genere. Siamo arrivati all'ultima puntata della nostra inchiesta dedicata alla condizione delle donne italiane in relazione alla pandemia da coronavirus che stiamo vivendo. Dopo un excursus tra gender pay gap, aumento del carico di cura, stereotipi culturali e violenza di genere, cerchiamo ora di capire quali azioni politiche possono essere messe in campo per migliorare la condizione delle donne italiane e costruire un'agenda politica più equa. In riferimento al territorio bolognese, ma con uno sguardo attento anche al contesto nazionale, Giulia Sudano, attivista e presidente dell'Associazione Orlando di Bologna, ha spiegato ai nostri microfoni come la priorità debba essere ora quella di lavorare sui dati di genere. L'analisi della realtà italiana attraverso la differenziazione dei dati per genere aiuterebbe infatti a fotografare più fedelmente la situazione del paese. Questi spunti ci hanno, diciamo, confermato la necessità di lavorare sui dati di genere. Anche dal basso un'associazione può farlo, ma soprattutto sarebbe importante che le istituzioni, a partire dal comune, tutte le indagini e le rilevazioni che vengono effettuate siano differenziate e riporti una differenziazione per genere, perché questo permette una comprensione più efficace del contesto e della situazione che vivono in maniera differente uomini e donne. Per esempio il tema dei redditi: non tutti gli anni il comune di Bologna rilascia dati inerenti ai redditi differenziati per genere, quindi il fatto di lavorare sui dati di genere è fondamentale per riuscire ad elaborare politiche più efficaci. Adesso la nostra associazione, che sta lavorando alla costruzione di un'agenda politica delle donne, che concluderà all'inizio del 2021, sta realizzando un nuovo questionario a partire dai primi di novembre fino a tutto il fine mese, per specificatamente indagare, questa volta solo sul comune di Bologna, un approfondimento dei temi che sono stati trattati nel primo questionario e anche un'apertura su quelle che sono le priorità che le donne intravedono rispetto alla città di Bologna come cambiamento, quali sono i cambiamenti prioritari che secondo loro sono importanti. E poi, con un momento partecipativo che organizzeremo molto probabilmente online all'inizio del 2021, cercheremo, insieme alle donne che avranno voglia di partecipare a questo momento, di identificare le proposte concrete e le azioni che poi saranno inserite nel documento finale dell'agenda politica delle donne presentato alla città. Proprio in merito al questionario portato avanti dall'Associazione Orlando, Valentina Bazzarin, ricercatrice che ha collaborato con l'associazione, ha evidenziato come, attraverso le risposte fornite dalle donne, si è emersa l'esigenza di concentrare l'azione politica e sociale non solo su risposte di tipo economico e materiale, ma anche immateriali, come appunto il lavoro di raccolta e analisi dei dati di genere. Il nostro questionario ha rilevato due cose assolutamente importanti e ha confermato la necessità di questo tipo di strumenti. Ha rilevato la necessità di spazi per raccogliere le esigenze, i bisogni, ma soprattutto i desideri delle donne che vivono nella nostra città, e soprattutto di combattere anche un po' degli stereotipi di cui si è parlato rispetto a come le donne vivono le varie situazioni, i vari momenti della loro vita, attraverso la raccolta invece di informazioni ulteriori rispetto a come vivono. Abbiamo visto anche noi che c'è una grande capacità di resistenza, di proiezione positiva anche nel periodo di difficoltà e di emergenza, e abbiamo soprattutto raccolto la necessità di avere non soltanto supporti materiali, economici da parte delle donne, ma di costruire delle risposte infrastrutturali, nel senso di infrastrutture anche immateriali, come infrastrutture di dati che permettano alle donne di vedersi rappresentate all'interno delle attività di statistica per quello che è veramente la loro situazione. Anche l'assessora comunale alla scuola e alle pari opportunità, Susanna Zaccaria, si è detta d'accordo sul ruolo cruciale svolto dai dati di genere. Condivido in pieno l'importanza sull'elaborazione, sul fatto che i dati siano disponibili per genere, perché è l'unico modo per avere una lettura. Condivido l'opportunità, ringrazio per il lavoro dell'associazione rispetto all'elaborazione di un piano per l'uguaglianza, che mai come adesso si rende necessario a fronte delle difficoltà che per le donne si rafforzano, aumentano queste difficoltà sotto ogni punto di vista. Quindi l'elaborazione di un piano per l'uguaglianza che possa essere messo a disposizione della città, secondo me, è una grande ricchezza. You apply, pressure to help me crystallize, and you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Things have gotten closer to the sun, and I've done things in small doses, so don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi. Giulia Sudano, presidente dell'Associazione Orlando di Bologna, la risposta bolognese per garantire una maggiore attenzione e concretezza alle politiche di genere si chiama welfare di prossimità. Con l'occupazione femminile nazionale calata al 48% e differenze salariali tra uomo e donna che sfiorano il 30% a parità di mansione, gli sforzi economici e politici devono adesso focalizzarsi su temi come la difficoltà di carriera per le donne, l'estensione dei congedi parentali e la creazione di un'occupazione di qualità. La necessità che ci sia un investimento economico significativo, perché le disuguaglianze di genere si combattono comunque con una spesa adeguata, non possono essere politiche a costo zero per colmare le strutturali disuguaglianze che ci portiamo avanti già da tanto tempo e che il Covid adesso sta aumentando, e si parla molto in questo senso di welfare di prossimità, quindi un miglioramento delle politiche di welfare. Sicuramente da questo punto di vista uno dei punti che diventano determinanti è l'attenzione anche al tema dell'aumentare i posti disponibili nei nidi. Questa sicuramente è una delle politiche più urgenti, perché in Italia in media solo il 30% dei bambini e delle bambine trova posto in un nido comunale, quindi da questo punto di vista c'è bisogno proprio di un aumento numerico molto significativo, così come c'è bisogno di incremento all'occupazione femminile, che è tra le più basse d'Europa, in assoluto quella italiana. Siamo adesso calate al 48%, eravamo recentemente arrivate al 50%, che è comunque una cifra molto bassa, quindi solo una donna su due, adesso addirittura siamo scese nell'ultimo periodo anche proprio a causa del Covid. Quindi sicuramente politiche che incentivino l'occupazione femminile, ma un'occupazione anche di qualità. Non basta solo incentivare l'occupazione, ma un'occupazione che permette di avere stipendi adeguati. Quindi qui rientra anche in gioco il tema della parità salariale tra uomini e donne, perché anche da questo punto di vista i dati confermano che c'è una differenza di almeno il 20%, in alcuni ambiti anche 30% di guadagno per la stessa mansione fra uomini uomini e donne, e incentivare la, tramite anche un cambiamento di tutto il tema dei congedi parentali, un maggiore equilibrio nella cura, nella condivisione della cura dei figli, ma anche se non di genitori anziani, fra uomini e donne, quella appunto di poter lavorare di più full time, perché molto spesso il ricorso a part time per poter curare figli o genitori anziani viene usato di più dalle donne, e questo comporta una penalizzazione nello sviluppo della carriera delle donne e quindi a guadagnare meno. Quindi sono tutti, diciamo così, elementi correlati che però portano a questo tipo di circolo vizioso, perché questo servono strumenti che permettano appunto politiche che da questo punto di vista possano riequilibrare dal punto di vista economico. Questo è importante perché poi una adeguata dipendenza e sostenibilità economica si porta poi dietro la possibilità di avere maggiori diritti e opportunità e anche in altri ambiti. Quindi partiremo da politiche che rafforzino il welfare, particolarmente l'occupazione femminile legata appunto all'incremento dei posti di nidi, aiuto e supporto per genitori e persone anziane, che molto spesso sono le donne che curano persone anziane, e persone familiari non autosufficienti. Quindi il grosso nostro passa appunto da una riforma del welfare che permetta di sgravare dalle donne il grosso peso della cura, che ancora in Italia è incredibilmente asimmetrico fra uomini e donne. Sempre Giulia Sudano ha poi accennato a come il comune sia percepito come l'istituzione più incline a mettere in atto politiche mirate al cambiamento. Come istituzione, il comune è percepita come l'istituzione più vicina e quindi più in grado di poter agire rispetto alla qualità di vita e per attuare un miglioramento rispetto ad altri livelli di governo, e quindi su questo c'è anche un po' un'aspettativa, no? E in questo emergono proprio quindi dei desideri di cambiamento da parte delle donne, non tanto solo dei bisogni, ma anche proprio dei desideri e delle visioni, quello che servirebbe per migliorare la propria qualità di vita. You're saying if only I could get over you. Grande nodo cruciale poi nella lotta alle disuguaglianze di genere in ambito lavorativo e non solo è quello legato al Recovery Fund. Il 14 ottobre 2020 il Premier Giuseppe Conte, in un discorso tenuto alla Camera, aveva accennato proprio al tema dell'occupazione femminile e alla scelta di dedicarvi parte dei fondi stanziati appunto per il Recovery Fund. Intendiamo promuovere l'occupazione femminile anche tramite agevolazioni per le donne e le madri lavoratrici, da definire un assegno unico universale per ogni figlio a carico, in raccordo con una più organica riforma fiscale, potenziare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, favorendone in particolare il riequilibrio territoriale. E proprio con riguardo all'occupazione femminile, accolgo senz'altro l'impegno contenuto anch'esso nella risoluzione di maggioranza che avete approvato ieri in quest'aula, e quindi assicuro che una parte significativa delle risorse del piano sarà indirizzata con massima determinazione al perseguimento di questo obiettivo. Ad esprimersi in merito alla destinazione dei fondi del Recovery Fund è anche Roberta Mori, consigliera regionale del PD. Appoggiando le richieste mosse dalle nostre europarlamentari attraverso il principio dell'Alfovit, ovvero la richiesta di destinare metà dei 209 miliardi dei fondi europei a sostegno dell'occupazione femminile, la consigliera ha infatti parlato della necessità di investimenti destinati al contrasto del gender pay gap e alla formazione per un'occupazione femminile equa e di qualità. Le risorse del Recovery Fund vanno orientate per la formazione e l'occupabilità femminile e contrastare il gender pay gap, perché lo stesso ministro Amendola, ma anche il ministro Gualtieri del resto, hanno proprio significato che parte delle risorse della Next Generation EU, in particolare Recovery Fund, dovranno andare per l'occupazione femminile, perché è la grande leva di svolta per il futuro del paese. A livello europeo il principio che le nostre europarlamentari hanno posto all'attenzione, diciamo, dell'Europa è l'Alfovit, che è un hashtag che dice: noi vogliamo la metà del Recovery Fund, noi vogliamo la metà in Italia dei 209 miliardi. Ma perché? Perché in realtà aiutare e sostenere la progressione del lavoro femminile, dell'occupabilità femminile e contrastare le disuguaglianze di genere, come ci dice l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 dell'ONU, è salvaguardare l'intera società e attiva dei meccanismi di aumento del PIL, in questo caso regionale, ma nel caso del Recovery Fund nazionale, che davvero può aiutare l'intera economia a ripartire dopo questa tragica vicenda che ci sta occupando e che ci sta facendo molto soffrire. La passione e anche la motivazione che ci muove in questo momento in regione è quella di mettere a terra le dichiarazioni e gli obiettivi, cioè rendere immediatamente percepibile o percepibili il prima possibile che le persone che stanno vivendo in sofferenza e anche un po' in solitudine di queste restrizioni necessarie, necessarissime della pandemia, ecco, non sono sole. E non è una questione, diciamo così, semplice questa, perché la società è molto complessa, i livelli sono tanti e essere adeguati in questo momento è molto difficile, però noi stiamo cercando di farlo, di orientare le risorse e anche le opportunità, rendendole però esigibili. Ecco, questo è l'elemento, credo, fondamentale: rendere esigibili i diritti e le giuste e legittime aspettative delle persone. Insieme al consigliere Federico Alessandro Amico di Emilia Romagna Coraggiosa, la consigliera Mori ha inoltre presentato in regione una risoluzione con lo scopo di inserire nel patto per il lavoro e per il clima azioni mirate al contrasto della discriminazione di genere in ambito lavorativo. Focus della nostra risoluzione è un impegno sostanzialmente ad introdurre nel nuovo patto per il lavoro e per il clima, che è in via, diciamo, di sottoscrizione dopo un percorso molto partecipato, puntuali azioni di contrasto alle discriminazioni di genere sul lavoro, perché le donne sono, insieme ai giovani, ma in particolare le donne, i soggetti che maggiormente hanno subito gli effetti della pandemia. Già strutturalmente le donne sono oggetto di disuguaglianza sostanziale in tutti gli ambiti, ma con la pandemia questo è aumentato. Quindi il patto per il lavoro e per il clima, che è un grande tavolo di condivisione, di sistema e anche un'alleanza molto forte per orientare le politiche regionali e anche le risorse del Recovery Fund su alcuni obiettivi, ebbene, per il lavoro abbiamo chiesto questo, ma abbiamo chiesto anche di assumere il bilancio di genere come come strumento per pianificare le politiche di programmazione per contrastare le disuguaglianze di genere. Il bilancio di genere è molto importante come strumento per la pubblica amministrazione, dovrebbe essere assunto a tutti i livelli, sia quelli comunali che provinciali che regionali, e a livello nazionale. Proprio recentemente Cecilia Guerra ha spiegato i numeri più importanti del bilancio di genere dello Stato, perché il bilancio di genere ti consente di verificare anche l'impatto delle politiche di genere e la collocazione delle risorse in modo equo, perché spesso l'allocazione delle risorse finanziarie della pubblica amministrazione è una collocazione neutra che non si distingue, diciamo, rispetto agli effetti che queste allocazioni di risorse possono avere per uomini e donne. Invece bisogna cominciare a verificarlo, perché appunto altrimenti le donne rimangono sempre indietro. Proposte, programmi abbozzati e richieste non sono però sufficienti se non si riesce nel concreto a portare la questione di genere al centro dei tavoli di lavoro europei, nazionali e locali. Come afferma infatti Linda Laura Sabadini, direttrice centrale dell'Istat e membro della Task Force per l'emergenza coronavirus diretta da Vittorio Colao, nonostante le acque inizino a smuoversi, l'Italia è ancora ferma in una situazione di forte arretratezza politica e sociale. Quindi il nodo è che una volta per tutte dobbiamo capire che con questo Recovery Fund dobbiamo centrare assolutamente la questione dell'uguaglianza di genere. L'uguaglianza di genere deve essere un obiettivo centrale, deve caratterizzare il Recovery Fund e nello stesso tempo deve caratterizzare l'azione sia a livello locale sia a livello nazionale. Le resistenze ci sono a capire che le donne non sono un soggetto svantaggiato, non vanno trattate come una categoria. Stiamo parlando della metà del paese, che è stata costretta a tassi di occupazione femminile bassissimi da decenni. Noi stiamo ancora al punto in cui neanche metà delle donne lavorano, e questo dovrebbe essere in cima alla priorità, invece non ci sta, e qui siamo sempre a combattere perché in qualche di cui si è inserito la parola genere, oppure si è inserita la parola infrastrutture sociali tra tutte le altre infrastrutture. Is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. She won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Yeah.